Stavo mettendo la mascherina, che aspettavo di mettere la mascherina, siamo tutti guglioni, ragazzi. Purtroppo ci vuole. Ma già passato sta, no? No, arriva qua alle 8:20, 8:18, cioè alle 20:18. Sono le 15, se non sbaglio. E allora sta arrivando, va. Avanti, Antonio. Trovato l'altro giorno quando sono sceso da Mario. Ho capito strano. Pigliava a casa, caricava. E sono sceso con la mascherina, sono entrato anche io con la mascherina, non sono là. Tutto da pieno, ma pieno, addirittura gente in piedi. E come cazzo fai a metterti la mascherina con tutte queste persone che ci sono? Non c'è manco un metro di distanza, a 10-20 centimetri l'uno dall'altro. È diventata una porcheria adesso il tram. Come lega non può caricare certe persone? Io so che non può caricare, capito? Solo che se non le carica l'autista ci risulta, capito? Te lo sto dicendo, io sono salito con la 25 e sono andato via da Mario, da casa di Mario erano le 6:15. Ho aspettato il tram e pieno era, te sto dicendo era pieno, me la sono sceso lì da dove c'è parte la regione, il Viale Dante, a bere una birra lì con le 7:30, alle 8 ho pigliato nuovo la 25 perché mi ha chiamato Simona, dice muoviti, che è tardi, devo cenare, eccetera, eccetera. Ho preso una birra in goditura, come si dice, no? L'ho bevuta veloce. Ma pieno, tu immaginati il caso. Da notte veloce, quell'ora lì già lo sai che salgono le persone per andare in per Italia, cosa del genere. Pieno era, cazzo, nutra. Che schifo, dico che io non so come stanno caricando. Per esempio al corso prima c'era il tram piccolino, no? Adesso c'è il tram grande proprio per non caricare troppa gente, capito? Dunque la gente deve essere staccata e così via. Avanti Lucrezio! Mi sa che riprendere il tram, dai, ripete voi. Vediamo se mi ascoltate sul tram. Dai, io ti chiamo, dai. Avanti Tonello. Stavo dicendo, va a fare la cervicale, anche a me, mi viene anche a me quando mi appoggio nel letto, capito? Dopo pranzo, mi appoggio un'oretta, mi alzo la testa tutta dolori, che io soffro il cervicale, capito? Dunque, non capisco che quando si appoggia arriva di nuovo capo la signora. E infatti c'ha vabbè, il cervicale, a parte la cervicale ha avuto, lo sai, la quella storia lì alla giugulare, quindi deve, quando tu pieghi il collo, la giugulare la stai piegando, hai capito? Perché la stai schiacciando un po'. E quindi quando si alza in piedi, a posto di stare sdraiata così, con la testa piegata, ho detto, ti siedi, ti guardi il televisore in salone, gli ho detto, a posto di guardare il televisore, nel letto di camera da letto, gli ho detto. Tu di quel vizio, ho detto, e vedrai che ti passa tutto, anche perché il sangue scorre meglio. Io non ho, oramai nel letto non mi siedo più. Quando guardo il televisore, non guardo il salone. Quando mi devo andare con i cambi, prendo e vado direttamente a letto e mi corico. E prima me ne alzavo, guardo, la mattina mi girava la testa. Io ho detto, cazzo, non sono sbronzo, non ho bevuto niente. Mi girava la testa. Meno male mi è passato quel coso lì. E poi diventavo il collo rigido. Io seguo lì, con calma, viene prima, qualche poltrona, una bella poltrona, quella regolabile, no? Come magari si appoggia bene il collo e si guarda la televisione. Vediamo se Luca si sente. Luca, attenzione Luca. Luca, ho visto il segnale, però modulazione zero, eh? Beh, adesso non lo senti, no. Appena arriva nel corso, il viaggio va di Pasqua, si è passato lì. E poi sale, come già lo sentiamo. Tanto dovrebbe fare via Lomberto, se non mi ricordo male, fa via Lomberto, poi sale su e poi fa il giro. Bene, vediamo. Oh Iuia, ma tutto l'altro sta a posto, sì Antone? Ehi, più o meno sì. Adesso sono un mese senza nulla. Devo fare il nuovo il 1° ottobre di questa merdaccia a cazzo, per colpa di 3-4 testa di cazzo che hanno restato, capito? Adesso dobbiamo fare il nuovo, dobbiamo fare al capo e col capo ci vogliono 20 giorni. E quindi se ne parlerà per avere il sussidio a novembre. Meno male che c'è qualche cosa da parte. E sono fortunato. Più che altro mi do per le balle, sai che cosa? Per le medicine, non per altro, tutto lì, preferisco pigliare le medicine che pigliarmi dopo da mangiare per dire. Poi per il resto non me ne fotte nulla. Stavo dicendo, ma la selezione l'ha fatto per la signora, sì? No, sto aspettando, avevo fatto la domanda per la pensione, sto aspettando che la chiamino via di sito, se la chiamano, hai capito? Una volta che la chiamano e fanno la visita e risulta che cose del genere, allora faccio modificare tutto, capito? Gli faccio fare la pensione di cittadinanza, non reddito, hai capito? No, sto dicendo l'esenzione per i medicinali, per le visite, sto dicendo, non pagare nulla a me. E lei ha bisogno di un'esenzione, anche tu non stai lavorando, dunque l'esenzione, se devi prendere qualcosa non la devi pagare. Vediamo se Luca ci sente. Luca? Sentiamo Luca. Nulla ancora, avanti Antonio. No, per le medicinali non è un problema, anche perché spendo anche poco. Non prendo gli originali, prendo gli altri, capito, i generici, quindi ne pago solo due. Pago la Belerva B1, che è una vitamina, e cosa? Il genere di colore, il Brabazepam. Pago e basta. Capito, io quando prendo le mie cose per l'originale non mi interessa nulla, e pago una fesseria, perché sono assente a certe cose, dunque pago la metà della metà, capito? Pago solo il costo della ricetta, quel ticket, il minimo ticket, basta. Verso l'esenzione, per la patologia e così via, tutto qua. Bene, avanti. Una volta me lo pagava il comune, a me lo sai, me ne davano 15-20 flaconi per volta, ma quelli consumavo io, figurati, sai quanti ne hanno regalato? Ti parlo di 7-8 anni fa, allora si poteva fare, adesso non lo fanno più, perché c'ha come me la... come si dice, la malattia cronica, capito? Sì, non so, ma stavo tagliando, ormai stanno tagliando i viveri un po' a tutti, troppo spreco c'è Antonio, troppo spreco, c'è mio collega che fa recupero dei medicinali, per carità, la mattina, non sa la roba che ci buttano, guarda, le fa ogni giorno c'è il carico di medicinali, ma roba nuova, è buttata, io... non lo so, con gente disperata e ci butto nel cinale. Se non ti serve non è biliare, se non ti serve, boh, avanti. E basta fare i miei medicinali, portarli alla Caritas e poi loro già li distribuiscono a chi ne ha bisogno, non è che ce li buttino. Basta portarli alla Caritas, lui prende e li mette dentro una busta, va alla Caritas dicendo questi qui no, li ho recuperati, non sono scaduti. Dateli ai poveri, così fanno, li distribuiscono al limite, chi non c'ha soldi li distribuiscono così, oppure alle parrocchie. Io so, ma ci vuole troppo tempo, perché lui con lo scarica mette il cartone sotto e è tutto mischiato, capito? Lui c'è una persona che deve scegliere, dividere, e un casino di tempo, quella roba va tutta sigillata e va consegnata a Cagliari. Poi a Cagliari, adesso non so se va bruciata o va demolita, boh, non lo so che fine fa quella roba. Oh, Ioia, vediamo se Luca ci sente, Luca? Senti ancora, avanti Antonio. Avrei detto che c'era il tram pieno, se non ve l'ho comprato in mano lo pigliano per pazzo, quindi, anche per la vergogna, più che altro, vabbè, a me io vergogna non ne ho. Io avevo messo l'auricolare, avrei stato tranquillamente con il portatile nel fianchetto, avrei parlato con l'auricolare come se fosse un telefono, col box. Esatto, poteva fare così, adesso non so quale apparecchio sto usando. Bene, mi stanno chiamando, c'è mio nipote che mi sta bussando la finestra. Ciao Antonio, ben sentito, grazie alla piccola chiacchierata, salutoni tutti gli ascoltoni, anche per me qui RT, dai. Ci sentiamo domani se coincide. Avanti Antonio. E ok, ciao Mari, ci sentiamo domani. Stammi bene, buonanotte, buon tutto. E buona cena. Ok, ciao anche Luca, se mi stai ascoltando. A domani Luca, ciao. Buonio, mi senti? Un buon.